si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati 800240024 per intervenire in diretta anche oggi sabato, ultimo sabato a questo orario di Si può fare, perché dal prossimo weekend saremo alle 7.30 del mattino fino alle 10 il sabato e dalle 8.30 fino alle 11 del mattino la domenica, sempre in diretta. Si può fare, Tattino, Radio 24 su Facebook, l'account su Twitter è Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Oggi vi vogliamo parlare di lavoro, di imprese, sì, che vengono cedute all'estero. C'è il Telecom agli spagnoli, c'è l'Europiana ai francesi, c'è la Pernigotti ai turchi, ma c'è anche di peggio, ci sono le imprese italiane che chiudono. Quest'estate ci sono stati molti casi che chiudono e vanno all'estero, si trasferiscono. E allora noi però su questo vi vogliamo dare una bella notizia, una risposta, una iniziativa, il Made in Italy Tour, un'iniziativa di imprese, di imprenditori che vogliono restare a tutti i costi in Italia e hanno anche delle idee, dei consigli su come fare, e li sentiremo tra poco. Io invece a voi ascoltatori all'800240024 vi chiedo di intervenire proprio su questo. C'è stato il caso Firem di Formigine, la Dometic di Forlì, la Hydronic di Pero, tutte aziende che hanno trasferito, delocalizzato come si dice quest'estate, il caso della Maflov di Trezzano nel Naviglio, sul Naviglio. A voi dipendenti di imprese che sono in difficoltà, che hanno chiuso, stanno per chiudere o che non vogliono assolutamente chiudere, chiamateci, raccontateci quali sono i motivi per restare in Italia. 800 24 00 24. Adesso un paio di notizie prima di cominciare. A proposito di crisi, ecco l'iniziativa dell'Università Bocconi, una notizia di qualche giorno fa: studi gratis per i nuovi poveri, la svolta della Bocconi di Milano. Il rettore Cironi dice: l'Ateneo apre anche ai figli degli immigrati, paghiamo loro la retta, l'alloggio, la mensa, i libri, il computer, 70.000 euro in 3 anni per ogni studente. Spiega il rettore, l'idea è quella di andare nelle scuole di periferia a cercare ragazzi di famiglie con situazioni economiche e sociali difficili, immigrati ma non solo, famiglie che non si sognerebbero mai di poter mandare i figli all'Università Bocconi, anche se hanno del potenziale, e quindi lo scouting della Bocconi tra i nuovi poveri che purtroppo ci sono in Italia. Un'altra iniziativa è questa, e puliamo il mondo. Nel weekend, da ieri a domani, l'iniziativa di Lega Ambiente, come sapete che ogni anno si ripropone, questa è la 21esima edizione, 800 24 00 24, chiamateci se voi state partecipando, se avete intenzione di partecipare in una delle tante città che aderiscono all'iniziativa, centinaia, migliaia di persone, imprenditori, manager, impiegati, casalinghe che si danno appuntamento per ripulire l'Italia in questo caso. L'appuntamento clou è domenica a Succivo, a Caserta, nella terra dei fuochi, quella quest'estate ritirata fuori anche dal pentito della Camorra che ha parlato di tutti i rifiuti tossici che ci sono purtroppo in questa zona, luogo simbolo dell'edizione 2013 Puliamo il Mondo, dove ci sarà anche il ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Chiamateci 800 24 00 24. Adesso andiamo in azienda. Dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare. Dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non lo pretendo. Un po' di retorica anche con Emma, non è l'inferno, quando parliamo della crisi, una bella canzone, però noi vogliamo dare anche un po' di ottimismo, e l'iniziativa che vi abbiamo già annunciato è questa, il Made in Italy Tour, le istanze dell'imprenditoria italiana, un giro ciclistico da Ancona a Milano, fatto da tanta gente per dire si può fare, si può restare in Italia, però anche cercare di capire come. E noi abbiamo convocato, tirandolo giù dalla bicicletta dove sta pedalando, credo proprio in queste ore, Massimo Porcarelli, presidente di SD Made in Italy e imprenditore soprattutto. Buongiorno Porcarelli. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dove... Una precisazione, sto ancora pedalando, per cui mi scuso se tante le volte. No, però mi raccomando, faccia attenzione perché... Assolutamente. Poi andate piano soprattutto, perché va bene il tour, però insomma arriviamo sani a Milano. Adesso dove siete? Allora, stiamo per arrivare a Reggio Emilia. Ah, belli. Quindi in pianura si pedala anche più facilmente. Tra l'altro siamo stati fortunati perché le previsioni mettevano possibili temporali, questo è il tempo bello. Sì. Abbiamo una bella accoglienza, il messaggio che stiamo portando è accolto in maniera molto positiva. Lei che impresa, Porcarelli, lei che impresa ha? Ma allora, noi ho un'impresa che è la JP Industries, dove noi realizziamo elettrodomestici bianchi, produciamo in Italia frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie. E purtroppo anche noi, come tante altre aziende italiane, stiamo soffrendo questo momento, questa situazione politico-economica. Però avete voluto dare un segnale importante, lei ha organizzato, ci spieghi un po' chi vi sostiene, che cosa avete organizzato, cosa state facendo e poi anche perché naturalmente. Vabbè, abbiamo organizzato questo raid cicloturistico che è partito da Fabriano, abbiamo già toccato Riccione, Bologna, siamo alla volta di Parma e si concluderà domani a Milano con due tappe, Piazza Castello e poi ci sposteremo su San Donato Milanese. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza, spiegare loro quanto è importante cercare dove è possibile di comprare un prodotto fatto in Italia, perché riteniamo che solo in questa maniera si possa dare un forte contributo al rilancio della nostra economia. Cioè, le nostre aziende stanno soffrendo, ma anche perché le aziende soprattutto che operano sul mercato nazionale non hanno più domanda. Stiamo operando in condizioni non sicuramente favorevoli. Quindi chiediamo un aiuto a tutti gli italiani. Ecco, Porcarelli, tiri un attimo il fiato e facciamo una piccola pausa per il traffico, appunto, tra l'altro, e poi continuiamo a parlare delle istanze del Made in Italy Tour che voi state portando avanti. Insomma, cerchiamo di capire anche qual è la differenza al momento tra chi, come voi, lotta per rimanere e chi invece poi è dovuto o ha voluto decidere di espatriare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. 800 24 00 24, tra poco anche con i vostri interventi in diretta, cari ascoltatori. Aziende che espatriano, che trasferiscono la loro produzione all'estero, che delocalizzano, aziende che invece vogliono restare in Italia, come quelle che hanno organizzato il Made in Italy Tour, e ne stiamo parlando con il suo ideatore, l'imprenditore Massimo Porcarelli. Porcarelli, ancora lì? Sono qua, presenti. Sta pedalando ancora dalle parti di Reggio Emilia, una bella giornata, una bella iniziativa, l'accoglienza è buona, domani arrivate a Milano. Dicevamo che voi chiedete ai consumatori, sostanzialmente volete far passare questo messaggio, consumiamo italiano, e questo va bene, ma anche le istituzioni sono coinvolte, perché questo è un dibattito apertissimo. Cosa chiedete prima di tutto alle istituzioni, voi che volete restare in Italia? Noi chiediamo fondamentalmente tre cose: interventi sulle politiche fiscali, sulle politiche industriali e una razionalizzazione della macchina pubblica. Quindi semplificazione amministrativa, e poi sul fisco che cosa in particolare? Ma si parla ormai da tanto tempo di riduzione del cuneo fiscale. Il cuneo fiscale, il famoso cuneo fiscale, che va e viene, no, nell'agenda politica, più che altro va, nel senso che non viene mai ridotto. Assolutamente, non viene ridotto, si fanno degli interventi, ma sono piccoli e purtroppo non sono assolutamente sufficienti per sostenere l'imprenditoria italiana. Ma in primis quello che chiediamo è, in questo momento, a tutte le nostre istituzioni una cosa importante e fondamentale. Sì. Chiediamo senso di responsabilità e stabilità, perché senza stabilità non abbiamo governabilità e quindi tutto quello che facciamo rischia di poi essere vanificato. Cioè, una precondizione è quella della stabilità, perché è inutile cambiare continuamente maggioranze, fare alchimie politiche, ci vuole tanto le cose da fare, più o meno si sa quali sono, e quindi bisogna farle, voi dite, con stabilità, con continuità, per dare appunto continuità a queste riforme. Sedersi poi al tavolo delle trattative con gli imprenditori, con Confindustria. So che Confindustria, che tra l'altro è un sostenitore anche dell'evento, del Made in Italy Tour, certo, che abbiamo il nuovo patrocinio, lo sta facendo, però dobbiamo accelerare i tempi, perché così non possiamo andare avanti. Senta, ma lei personalmente, visto che ha organizzato tutta questa cosa e quindi ci mette anche la sua carica personale, sì. Attenzione, sta passando qualcuno a fianco al tour. Quanti siete a pedalare, tra l'altro, Porcarelli? Allora, siamo un centinaio di ciclisti. Ma siete tutti imprenditori o ci sono anche dei ciclisti, no? Ci sono degli imprenditori e ci sono persone che vivono una situazione lavorativa alquanto complicata. C'è chi purtroppo in cassa integrazione, chi è che ha perso il lavoro, perché si sono uniti proprio perché credono in questo messaggio che stiamo portando. Non avete chiamato nessun ciclista a tirarvi la volata, no? No, abbiamo i mondiali. No, se no poi andavano troppo veloci, diventava complicato. Io però vorrei chiedere, lei è ottimista, cioè personalmente? Allora, dobbiamo essere ottimisti. Sicuramente sono ottimista, ma allo stesso tempo anche molto realista. Le possibilità ci sono, però è arrivato il momento di cambiare qualcosa sul serio e farlo velocemente. Altrimenti continueremo sempre solo a parlare ed è il momento, insomma, di dimostrare qualcosa agli italiani, perché il nostro paese è un bel paese, gli italiani sono un popolo coraggioso, abbiamo iniziativa, non ci arrendiamo, però da soli non andiamo lontano. Un'ultimissima cosa, poi la lascio alle sue pedalate, dalle parti di Reggio Emilia verso Milano, è questa: qual è la differenza oggi tra chi come voi cerca di rimane e si mette nella condizione di fare anche delle richieste, delle proposte, e chi invece se n'è andato, ha trasferito all'estero, ha delocalizzato in Polonia, in Ungheria o in Svizzera o in Sud America? Cioè, è una questione di volontà o di condizioni oggettive? Ma è sicuramente una questione sia di volontà che di condizioni, ma la principale differenza è che chi rimane come me sono imprenditori legati al territorio, che sentono anche la responsabilità civile nei confronti del paese, del territorio. Grandi aziende sono gestite da manager, sono più guidati dalla politica dei numeri più che dalla politica magari occupazionale. Sarebbe bello poter tornare un po' anche alle aziende guidate dagli imprenditori come lei, che hanno questo legame col territorio, forse ne vedremo più delle belle che non invece con aziende guidate dalla finanza anche internazionale. Mi sembra questo un po' il messaggio. Grazie Porcarelli, buone pedalate, buon Made in Italy Tour, l'iniziativa è questa, ve l'abbiamo raccontata, da Fabriano a Milano, l'arrivo domani di questo giro ciclistico che è un pretesto per raccontare la voglia che hanno le imprese italiane di rimanere in Italia. Da questa storia invece andiamo a raccontarvene un'altra, la storia delle periferie italiane tra lavoro e ambiente, un equilibrio non sempre facile, come ci racconta un amico cantastorie. Ho perso un braccio, ma come posso fare? Me ne è rimasto un altro, posso ancora afferrare. Ho perso una gamba, ma voglio ancora andare. Magari andrò più piano, mi toccherà di zoppicare. E allora ritroviamo e salutiamo l'autore di questa canzone che state ascoltando, l'autore e l'interprete, Simone Saccucci. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno. Lui nella vita fa l'educatore di comunità, ma è anche un cantastorie. E da quanti anni ti diletti con questi spettacoli, che poi la cosa bella è che si svolgono sempre in posti diversi e inusuali? Da quanti anni, Simone? Sono 14 anni che lavoro a questo progetto. Che si chiama? C'ha un nome anche particolare. Sì, è Rocce, Spine, Streghe. Perché, tra l'altro? Perché sono le tre parole che sento sempre quando mi raccontano sia quelli di ieri sia questi di oggi del mio dormitorio, del paese in cui vivo. Guidonia. Esatto. Tutto parte dal territorio, come raccontava anche Massimo Porcarelli, l'imprenditore che cerca di rimanere attaccato a questo territorio positivamente. E anche le tue storie hanno un po' questo senso, anche se poi il significato è più allargato, ha a che fare con la vita delle persone in una zona. Quanti chilometri da Roma, Guidonia? Una trentina. Per quanti abitanti? Arriviamo quasi a 100.000 abitanti. Quindi capite, una città, quartiere, satellite, periferia, è difficile definirla, che vive attorno a Roma e che vive in un territorio particolare, perché c'è il tuo prossimo spettacolo, stasera si svolge in un cementificio, adesso poi arriveremo a questo, diamo anche l'appuntamento, un territorio caratterizzato da la periferia, il quartiere dormitorio, ma anche una cava, questo cementificio, è però un rapporto anche complicato tra lavoro e ambiente. Sì, perché mentre si spinge sul lavoro e quindi qualcuno lavora, parallelamente si va ad usare il territorio in vari modi e quindi il territorio un po' subisce effetti non positivi dal punto di vista geologico per quanto riguarda la cava e dal punto di vista ambientale per quanto riguarda il cementificio. Simone, cosa racconti nel tuo spettacolo, per esempio quello di stasera, che si svolge dove esattamente, in quale cementificio? Si svolge dentro il cementificio Buzzi Unicem, che è uno dei più grandi d'Italia e che abbiamo noi nel nostro territorio, e precisamente si svolge dentro alla sala dell'insacco dei sacchi di cemento. Insieme agli operai, ieri pomeriggio abbiamo fatto il palco e mi hanno fatto una sorta di anfiteatro con i sacchi del cemento, quindi vediamo stasera cosa ne viene fuori questa coreografia particolare. Quindi qual è il filo conduttore di questo spettacolo? Poi chiami anche le persone, tra l'altro, a dare un contributo. Sì, io nel mio piccolo penso questo, che si chiama dormitorio perché c'è un modo particolare di parteciparvi dentro. Dormitorio perché la gente va a Roma e poi ritorna la sera a malapena per dormire o al massimo per cenare, quindi non partecipa durante il giorno, però nonostante tutto il posto c'è e nonostante tutto c'è anche qualcuno che ci lavora in quel posto, ci ha fatto famiglia, eccetera. Quindi lo spettacolo cerca ogni volta di costruire un momento di partecipazione con il pubblico per far sì che il pubblico si scrolli di dosso il ruolo di pubblico, che applaude o fischia, quindi che non partecipa in realtà. Quindi non è che può venire lì, stare tranquillo, alle tue canzoni da spettacolo. Quindi pubblico avvisato, cioè nel senso pubblico coinvolto. Magari i più timidi possono anche essere coinvolti solo in parte, perché no, ovviamente si va con le molle, se no uno si spaventa. Simone, senti, tra questi due poli, questi due aspetti, il lavoro, il bisogno del lavoro, pensiamo alla questione dell'Ilva, e l'ambiente, no? E vivere il territorio in un certo modo positivo, se possibile, cosa scelgono i protagonisti delle tue storie? C'è una via particolare oppure è sempre una commissione difficile? I protagonisti delle storie che racconto cercano soltanto di resistere decentemente a tutto questo, e quindi qualche volta resistere per alcuni significa fregarsene, perché alcune cose sono più grandi di loro, qualcun altro invece si muove in altri modi, qualcun altro invece parte e non ritorna più. Però di fondo secondo me c'è sempre la resistenza, in qualche modo uno va avanti e spera che le cose migliorino, e i protagonisti di queste storie che racconto fanno proprio così: alcuni rimangono qui e cercano di trovare la soluzione migliore, qualcun altro invece non ce la fa e parte. Sembra una cosa strana, da pazzi, ma Simone Saccucci va a esibirsi anche in Inghilterra, sei stato chiamato anche dalla BBC a raccontare del tuo spettacolo. Grazie a voi, tra l'altro. Questo abbiamo contribuito a creare un eco. Prossima data all'estero è prevista già? Il 16 ottobre a Sheffield. Pensate un po'. Nella periferia di Sheffield, sì. C'è un club che ci accoglie con piacere e io sono. Ma cosa c'è? Un gemellaggio tra Sheffield e Guidonia? Cioè ci sono degli elementi comuni oppure è un'altra periferia, un altro mondo? È un'altra periferia, sì, ma soprattutto vado lì quando riesco a organizzare per andare, vado lì per imparare senza dubbio, perché quindi loro raccontano e io anche, quindi ci scambiamo storie. L'appuntamento invece per stasera è? Stasera alle 20:30 inizia tutto, dentro la sala dell'insacco della Buzzi Unicem a Guidonia Montecelio. Poi c'è il mio sito per chi vuole andare, ci sono tutti i dettagli. C'è una cosa stranissima, io ve lo consiglio, perché una cosa così non l'avete mai vista da nessuna parte, uno spettacolo in un cementificio in cui si parla delle cave e del territorio e delle periferie dormitorio. Magari non sarà come andare a vedere il bagaglino, cioè si ride così facilmente, però dal clima capite anche che poi si ride. Grazie Simone Saccucci! Grazie a voi! Si può fare cronache da un paese migliore. Subito due messaggi al 349-238-6666, 35 anni, l'azienda di famiglia sulle spalle, tanta voglia di spostare tutto all'estero. Un altro ascoltatore ci scrive: perché non ho i volumi, altrimenti sposterei l'azienda domattina, l'Italia è morta, Confindustria fa solo politica e poltrone, il fatto di essere made in Italy non vale più nulla, gli imprenditori in bicicletta, bisogna dire di stare attenti, domani a San Donato Milanese il zuc di stranieri gli ruberà le bici, prima o poi scapperò da qui, promessa. Due messaggi un po' di taglio negativo, anzi tutti l'Italia negativo. È da qua che siamo partiti oggi. Le aziende che hanno espatriato quest'estate sono andate all'estero: la Firem di Formigine, la Dometic di Forlì, la Hydronic di Pero, la Maflof di Trezzano sul Naviglio. E noi vi abbiamo voluto però portare la storia delle imprese che invece vogliono rimanere qua, e con questa iniziativa del Made in Italy Tour in bicicletta da Fabriano a Milano vogliono chiedere ai consumatori di consumare italiano e alle istituzioni di fare qualcosa, di semplificare la burocrazia, se ne parla da anni, e di diminuire le tasse sul lavoro. Avete capito bene, non l'IVA o l'IMU, ma le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale, tutt'altra faccenda rispetto a quella di cui si riempiono spesso le pagine dei giornali. 800 24 00 24, ci abbiamo anche un ascoltatore, Massimiliano dalla provincia di Mantova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei per cosa aveva chiamato, Massimiliano? Io circa 3 mesi fa ho aperto una startup nel settore parrucchiere e prodotti per parrucchiere. Bravo, una startup, quindi un'impresa nuova. Come sta andando? Ma il conto economico dice che sta andando bene. Se non mi fosse accaduta una cosa spiacevole esattamente l'altro ieri, cosa in quanto mi hanno fatto uno sbilancio di competenze in banca, è arrivato un assegno da 275 euro, ho ricevuto una chiamata dalla banca che o avessi dalla banca dove mi si intimava o di coprire l'assegno oppure mi avrebbero protestato. Cioè per 270 euro lei che gestisce un'impresa di quanti dipendenti? Sono 4 dipendenti con un'altra apertura fissata dentro il 31/12, sempre di un altro punto vendita. Io mi chiedo dove potremmo fare... Cioè la banca per 270 euro sta per protestare? 272 euro, esattamente. È pazzesco questo. Io sono andato in banca dicendo, vabbè, pagatemelo, ma non peraltro perché io vivo di incassi, effettivamente, avendo un'azienda che vive di incassi, ho detto, datemi della possibilità. Mi sono sentito dire, se non hai soldi, lei va dal notaio, dopodiché protesta della morte cerebrale. Forse... A quel punto mi sono sentito in diritto di dovere di dirmi, allora mi dovete protestare. Se voi veramente, un'azienda che ha 4 dipendenti e che ha comunque in progetto, io ho già dato le cauzioni per un altro punto vendita, in apertura al 31/12, fate un'azione violenta come quella di un ricatto per 270 euro. Sì, ma senta Massimiliano, ma lei è ottimista? O no? Cioè, questo potrebbe essere il terzo capitolo del Made in Italy Tour, cioè i consumatori, le istituzioni e le banche. Questo non è stato toccato, ma a parte il caso suo... Ottimista. Io resto ottimista, sono anche propenso a protestare, ma andare avanti. Bisogna fare qualcosa, ci vuole una rivolta civile, dobbiamo far capire alle banche che è vero che ci sono dei problemi, ce ne sono sempre di più. Però se non si aiutano le persone per cifre misere, perché stiamo parlando di cifre misere, le si mette in condizione di non creare impresa quando si hanno 4 dipendenti che costano, di cui 3 operai e 1 in apprendistato, che costano gli operai una cifra fuori da ogni logica umana, e uno vuol continuare ad andare avanti perché crede comunque che il nostro paese si debba dare una seconda chance, credo veramente Insomma, il suo è un messaggio alle banche. Ma il settore dei parrucchieri, come si chiama il suo settore? Coiffeur. Tira, sta andando bene? Sì, in alcuni settori sì, in altri meno. Sicuramente le donne non rinunceranno mai al parrucchiere, non potranno spendere 50 euro cioè, per imparano una a risparmiare per fare la spesa, però qualcosina per farsi la piega, giustamente, lo lasciamo sempre da parte. Grazie Massimiliano per la sua telefonata dalla provincia di Mantova. Adesso invece andiamo a Castellanza, dove nasce il bar etico. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria, e non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno 3. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei. Salutiamo il vice sindaco di Castellanza, Luca Galli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Galli. Grazie di avermi chiamato. Buongiorno. Allora, l'iniziativa è il bar etico, se ricordo esatto. Bene. Si chiama proprio esatto. Così, bar etico. È stata presentata da lei qualche giorno fa. È un'iniziativa del comune di Castellanza. Perché? Prima di tutto perché sulla questione, come si capiva anche dalla musica, che a noi sta molto a cuore, delle slot machine, perché non è che ce l'abbiamo con le slot machine o con chi vuol giocare liberamente, ma col fenomeno, basta guardarsi intorno, no? Che nascono come funghi, le sale giochi, in tutti i bar, poi si chiama gioco, ma basta guardare le persone che giocano e si capisce che di divertente c'è poco. C'è qualcosa che non va. Voi siete intervenuti come, Galli? Allora, noi siamo un comune che si è sempre contraddistinto per un intervento molto pesante sul territorio nel settore del sociale. Noi spendiamo quasi il 20% della spesa corrente per quel che riguarda i servizi alla persona. E abbiamo notato che gran parte delle persone più in difficoltà andavano a giocare le macchinette nei bar, no? E questo sicuramente è qualcosa che ci creava ulteriori problemi, ci portava a spendere risorse pubbliche per andare ad aiutare le persone a giocare. Questa cosa è diventata un fenomeno molto pesante sul territorio ed una cosa veramente inaccettabile. Voi quanti abitanti, mi scusi Gallia, faccio poi proseguire, quanti abitanti sono a Castellanza per capire qual noi è importante? Noi abbiamo 14.500 abitanti, però la città è una città universitaria, di industrie, abbiamo quindi 450 appartamenti sociali del comune, quindi è una... Comunque capite, una città dove gravita magari un numero anche più grande di persone, una città piccola, ed è questo il senso anche, no, un po' della puntata di oggi, cioè l'importanza del territorio, perché della provincia, del fatto di vivere a contatto con i problemi. Voi avete visto che c'è gente proprio che spende lo stipendio, pensionati che bruciano la pensione, cioè stando lì in una città piccola si vedono meglio queste cose, si capiscono meglio. Abbiamo capito che questo fenomeno è diventato così pesante, per cui abbiamo voluto dare un piccolo segno, un piccolo riconoscimento che dal punto di vista economico è molto piccolo, perché stiamo parlando di circa 500 euro. Però con questa immagine del bar etico vogliamo dare un segnale per cui riportare anche gli esercizi commerciali a una dimensione territoriale, una dimensione etica del territorio, no? Devono sapere che le persone che vanno a giocare tante volte sono persone già in difficoltà, che quindi vanno a finire ancora di più nel baratro. Sì, ecco, ma ci spieghi meglio diciamo, poi i bar che possono avere questo sconto, insomma questo sostegno economico piccolo, allora, però come funziona, quali criteri, come funziona proprio? L'unico criterio è che il bar non abbia le slot machine, quindi non basi parte dei propri incassi sugli incassi derivanti dal gioco d'azzardo. Voi avete un'idea, ecco, in questo caso quindi si può, se io ho un bar e non ho la slot machine o l'ho tolta, posso accedere a questo finanziamento? Esatto, sono poi circa 20 bar e noi abbiamo stanziato 10.000 euro per erogare questi premi. Ovviamente questo progetto contro la ludopatia è un progetto integrato che va avanti da tanto tempo, perché il fenomeno dura da molto, no? Sì. E quindi è una conseguenza. Abbiamo anche trovato anche altre soluzioni per le persone in difficoltà, specialmente per quel che riguarda coloro che hanno perso il lavoro. Abbiamo attivato anche un progetto di microcredito, per cui il comune eroga dei finanziamenti a tasso zero, restituibili in 3 anni anziché il fondo perduto, per consentire a queste persone momentaneamente in difficoltà di riacquisire una loro autonomia. E allora, a maggior ragione, visto che il comune eroga tanti soldi a favore del sociale, non possiamo non fare delle azioni per fare che questi soldi vadano veramente a buon fine e non all'interno delle slot machine. Questa voglio dire anche un'altra notizia che riguarda sempre la Lombardia, il comune di Macherio, che sta pensando di abbassare la TARES per i bar che non mettono le slot machine. Questa è un'altra iniziativa, si può pensare magari anche di fare rete e di creare una scambiare le buone pratiche su questo, sarebbe interessante. L'altra cosa su cui voi, fra l'altro, quanto può rendere a un bar? Avete un'idea della stima? Io guardi, una slot machine 2.000 euro al mese? Sì, più o meno ci siamo. Che, capite, non è poco, per cui bisogna anche aiutarli bar a capire che se vogliono fare questa scelta, rinunciare a un guadagno così non è semplice, farlo a cuor leggero. Poi c'è un'altra iniziativa, sempre vostra, a Castellanza, che state pensando di fare sui compro oro, perché anche qua c'è un problemino, secondo voi. Sì, diciamo che noi ne abbiamo 4 direttamente sul territorio di grosse dimensioni, e nell'intorno ce ne sono veramente veramente tanti, per cui abbiamo pensato anche a questo fenomeno, dove tanta gente va e si libera di una serie di beni, soprattutto per i problemi che diceva anche l'ascoltatore di prima, no? Difficoltà nell'accesso. Ma voi però cosa state pensando? Ci dica l'iniziativa. Allora, che siamo quasi io sto pensando a localizzare nella zona un un Monte dei Pegni come si faceva una volta. So che le banche più importanti nei capoluoghi di provincia stanno riaprendo questo tipo di servizio, quindi accesso al credito garantito da beni. E l'accesso al credito, che non vuol dire spogliarsi immediatamente di un bene, che può avere anche un significato affettivo. No, resta lì e poi quando si è in grado di restituire il prestito, esatto, può ritornare in possesso. E siccome la nostra città è un po' al centro di altre due grandi città che sono Legnano e Busto Arsizio, facciamo un agglomerato di più di 200.000 persone. Vabbè, questo poi sono particolari. Vice Sindaco, grazie. Noi quando farete anche questa cosa qua, vi verremo a trovare, ce la racconterete nei dettagli perché ci piace anche questa iniziativa. Grazie, Luca Galli, Vice Sindaco di Castel. Stellanza. Abbiamo anche un ascoltatore, Giuseppe D'Alecco, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. E a lei soprattutto, che la sento tutte le mattine. Brevemente, io vorrei però farle notare anche un'altra cosa, scindere le scommesse sportive da effettivamente questi giochi d'azzardo. Sì. Secondo me si generalizza molto No, certo, sono cose diverse. Scommesse sportive sono una cosa, le slot machine sono un fenomeno molto più compulsivo, credo, e sono un'altra cosa. L'iniziativa di cui abbiamo parlato adesso riguarda solo i videopoker. Le slot machine dentro i bar è diverso, le scommesse sportive, quelle regolari, si fanno in un altro modo e non generano quei problemi, almeno credo, Giuseppe. No, però ascolti, è stata proprio una scelta sbagliata per l'ennesima volta della politica, che bastava aprire per esempio un casinò in ogni regione, perché i casinò ci sono già. Il problema è stato proprio aprire di massa questi locali dove c'è veramente tanta gente che non capisce che è una macchinetta che butta soldi. Sono d'accordo con lei, ci vorrebbe un casinò in ogni regione e la finiamo lì invece di piazzare slot house in ogni angolo dei quartieri delle città. Grazie Giuseppe per essere stato con noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ricordiamo i nostri contatti: si può fare @radio24 su Facebook, l'account su Twitter è @si può fare24, il mio è @AleMaurizzi. Ricordiamo anche che da sabato prossimo siamo dalle 7.30 alle 10 del mattino e poi da domenica prossima dalle 8.30 alle 11 del mattino. Abbiamo un altro ascoltatore, Alfredo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Alfredo. Buongiorno. Prego. Senta, io purtroppo per me, e non è casuale purtroppo, faccio il cavatore di mestiere. Praticamente io a 15 km da Bergamo ho una cava di dolomite che è un carbonato doppio di calcio e magnesio, serve per tutte le cariche dei carbonati, per fare vetro, nell'industria chimica essenzialmente. Lei è il titolare di questa cava o è un dipendente? Legale rappresentante. Legale con due fratelli, sì. E ne sono il legale rappresentante. E come vanno il lavoro? Non ha una domanda di riserva? Non lo so, vuole andare a vedere lo spettacolo di Sacucci nella cava di Guidonia, no? Giusto? Infatti, è interessante, no? Vi sento come vi sento, scusi, torno la voce, ma mi viene da piangere a pensarci. Che succede, Alfredo? No, non si metta a piangere, noi vogliamo portare ottimismo e lei si mette a piangere. Alfredo, che succede? Guardi che io ho 68 anni, sì. Sono 68 anni che faccio 18-20 ore al giorno e mi trovo in queste condizioni a 70 anni, non è bello. Non è bello. Ma in che condizioni si trova, Alfredo? Ci racconti un attimo. Di insolenze dei nostri clienti. No, insolvenza dei clienti, non vi pagano? Esatto. Chi è che non vi paga, le pubbliche amministrazioni o i privati? Assolutamente, aziende private essenzialmente. Quindi non è solo un problema dello Stato che non paga, ma sono anche i privati a volte che non pagano, perché esatto, questo è un problema. Esatto. Non ho mai lavorato con il pubblico, ho sempre lavorato con il pubblico. Lei quanti dipendenti ha, Alfredo? Siamo in nove in azienda. Quindi deve essere anche orgoglioso che ha dato la lavoro a un sacco di persone. No, sono orgogliosissimo, non orgoglioso. Bravo. Però trasciniamo un indotto di 15-20 mila persone, quindi non è proprio un'azienda secondaria la nostra come produzione. Praticamente se lei vuol fare del vetro, deve usare del nostro prodotto. Alfredo, facciamo una cosa, siccome noi poi adesso fra poco chiudiamo, però la sua è una bella storia, questa cava in provincia di Bergamo, ci risentiamo, ce la racconta con più calma, perché è un caso interessante, no? Per parlarne, d'accordo Alfredo, le va? Sono d'accordissimo. Allora magari da sabato prossimo... La chiamiamo noi e ci racconta meglio questa storia, che è una storia comunque di resistenza di un'impresa in provincia di Bergamo. Alla settimana prossima, grazie Alfredo. E perdoni se mi è venuto il nodo, il gruppo alla gola. Non si preoccupi. Lo recuperiamo e ne parliamo con più calma. Alla prossima. Arrivano i buoni, arrivano. Finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Siamo quasi in chiusura, i buoni, arrivano i buoni. Buoni anche come Alfredo, che ha una cava in provincia di Bergamo che dà lavoro a 9 persone e che non riesce a farsi pagare dai clienti per via della crisi o anche per via dei furbi che ci sono sempre e che si sta per mettere a piangere. I buoni però sono anche quelli di Passamano, l'associazione di Bolzano, che una ne fa e 100 ne pensa, quelli per esempio del negozio dove non si paga, e che hanno organizzato invece per oggi a Bolzano la festa degli ingombranti. Noi abbiamo convocato il presidente dell'associazione, Alessandro Borzaga. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, siamo qui in piazza Angela Nicoletti a Bolzano alla festa dei rifiuti, ecco, ingombranti. Io volevo sapere dove siete, ce l'ha detto, quanti siete? Dunque, siamo qui, ci sono passate un sacco di persone, sì, che hanno portato i loro rifiuti ingombranti, quindi lavatrici, mobili, anche elettronica, anche vestiti, li hanno abbandonati tutti in piazza, e poi anche tante altre persone. Cioè, abbandonati in che senso? Ma i proprietari sono lì, però non è che se ne sono andati. No, i proprietari portano qui gli oggetti perché altri cittadini li possano riutilizzare. Ma com'è, uno scambio, oppure io porto un cassettone vecchio, lo lascio lì, me ne vado e poi qualcuno passa e lo prende? È uno scambio asincrono, nel senso che non c'è una contropartita. Una persona può abbandonare il proprio comò, il proprio computer. Ma mi scusi, però questa parola abbandonare, non capisco. A fine serata, se nessuno ha ritirato, che ne so, la vecchia lavatrice che è stata portata lì, che fine fa? No, allora praticamente i cittadini hanno già preso quasi tutto, quindi rimane pochissima roba. Ah, è sparito tutto? Sì, poi comunque ci siamo noi tre, perché questo è un bellissimo esempio di collaborazione tra il Comune di Bolzano, l'assessorato all'ambiente, e noi tre associazioni e cooperative private. In pratica noi abbiamo fatto questo progetto, che poi si ripeterà in una piazza diversa ogni mese nella città di Bolzano. Quindi, invece che portare tutto in discarico, abbandonare nei rifiuti le cose che non servono più, i cittadini porteranno tutto in piazza, quindi proprio sarà una festa mensile in piazza dei rifiuti ingombranti. Allora, alla fine della giornata, noi stesse associazioni cooperative ci possiamo prendere quello che serve, e a questo punto rimane pochissimo. Dopodiché passa la SEAB, che è... Ah, è chiaro. Riassumo io per chi si è distratto. Tutti portano le loro cose in piazza, i loro cassettoni, i loro lavatrici, esatto, cose ingombranti. Dopodiché la gente passa e prende quello che gli serve. Voi stessi a fine serata raccogliete quello che può servire all'associazione. Se avanza ancora qualcosa, passa l'azienda e porta via tutto. Qual è la cosa più strana che è stata portata oggi? Oggi un bellissimo specchio, una specchiera antica, e ho detto me la prendo io. Bella. Me lo porterei, però alla fine se l'ha giudicata un cittadino che chiaramente aveva più diritto, certo, insomma. Perché voi dell'associazione dovete vigilare, non è che potete portarvi tutto via voi, sennò diventa appunto, imbarazzante. Comunque l'iniziativa sicuramente ha avuto un bel successo. Se dovesse quantificare il numero di oggetti che sono transitati da una mano all'altra oggi, più o meno, così a spanne. Ma io direi un centinaio di oggetti grossi, tra mobili ed elettrodomestici, e almeno un migliaio di oggetti piccoli. Più piccoli. Dal computer allo schermo, al CD, al DVD, al paio di scarpe. Di tutto. Grazie Alessandro Borzaga dell'associazione Passamano di Bolzano. Questa era l'iniziativa, la festa degli ingombranti. Ci fermiamo qua. Io voglio ringraziare Giorgio De Luca in redazione, Franco Piantanida anche in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Filippo Aureggi in regia. Ci troviamo domani a mezzogiorno e poi da sabato prossimo nel weekend alle 7:30 del mattino. Buon sabato a tutti da Alessio Maurizi. Si può fare. Cronache da un paese migliore.